Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, come molti di voi sanno oggi, che non vede i mercati aperti. I mercati nella maggior parte dei casi sono chiusi per la festività pasquale e lo saranno chiaramente anche lunedì, chiusa sicuramente Milano. Per quello che riguarda i temi, ovviamente oggi è una giornata, diciamo così, semifestiva, però dal Consiglio dei Ministri sono uscite novità. Sia sulla scuola bella, io direi più che altro scuola buona, più che bella, perché gli investimenti nella scuola servono sì per la parte dell'edificio e infrastrutturale, ma anche per avere una scuola che funzioni meglio. Dicevo, via libera del Consiglio dei Ministri al proseguimento del programma Scuole Belle, stanziati altri 64 milioni, ne parleremo, ma soprattutto oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che archivia definitivamente il famoso patto, o famigerato patto di stabilità interno. Cos'era e cos'è? Era quel patto che vincolava regioni, province, città metropolitane e comuni, chiaramente, a non spendere i soldi anche, e questa è la cosa, diciamo, più paradossale, distorsiva, anche quando li avevano in cassa ed erano comuni virtuosi. In questo modo, più volte abbiamo detto, per evitare che poi questa spesa diventasse una spesa complessiva dello Stato italiano, si andavano a penalizzare i comuni virtuosi che risparmiavano, gestivano, e gli enti locali comunque virtuosi che gestivano bene la spesa locale e avevano soldi in cassa, e si andava paradossalmente quasi a premiare i comuni non virtuosi, perché tanto quelli erano in deficit e non potevano comunque spendere come gli altri. Ora, da questo punto di vista, il disegno di legge oggi approvato, o meglio licenziato dal Consiglio dei Ministri, prevede sostanzialmente che per la sola parte relativa agli enti locali la legge attuativa del pareggio di bilancio viene praticamente modificata. D'ora in avanti le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni avranno infatti solo un vincolo: tante sono le tue entrate, tante sono le uscite, per cui sostanzialmente potrà spendere un comune solo l'avanzo, diciamo, di bilancio. Quindi vengono meno gli 8 vincoli di bilancio che erano precedentemente stati infilati in una legge del dicembre 2012. E questo dovrebbe portare, secondo il governo, un impulso agli investimenti pubblici locali. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Nella prima ora, come sempre il venerdì, avremo la poco invidiabile classifica di Focus Economia, e quindi gli sprechi della pubblica amministrazione, degli enti locali, delle partecipate dello Stato, gli sprechi di soldi nostri. E ancora, per quello che riguarda appunto la borsa, oggi la stragrande maggioranza dei mercati sono chiusi, e quindi c'è poco da commentare. Possiamo commentare, se volete, l'euro su dollaro, che è a quota 1,11, per cui poco mosso, praticamente non mosso, ricordare che il numero per i vostri sms è 349-238-6666 e anche il numero per WhatsApp. Rapidamente le altre notizie in breve. Anticipo che oggi, di solito noi abbiamo la classifica degli sprechi della settimana e poi volutamente un caso virtuoso che spesso troviamo tra gli imprenditori che si sono rimboccati le mani, che hanno lanciato un'attività di impresa, una startup, come si chiama in gergo, una nuova attività in questi anni di crisi. Oggi volutamente il caso virtuoso sarà rappresentato da due enti pubblici e, per la precisione, due ospedali. A dimostrazione che non esistono solo i casi negativi. Vuole essere, non dico un dono pasquale, perché di dono non c'è niente in quello che stiamo per raccontare, però insomma, ogni tanto ricordiamo che di virtuoso ci sono anche E ci siamo avvalsi del rapporto di Italia Decide, quindi non è stata una scelta nostra arbitraria, si tratta appunto dei due istituti ospedalieri premiati, tra l'altro, alla Camera dei Deputati. Vabbè, domenica torna l'ora legale, il risparmio sarà in 7 mesi di 95 milioni di euro. Terna stima, come avviene ogni anno, minori consumi elettrici, questa volta per 500 milioni di kilowatt ore, appunto quasi 95 milioni di euro di risparmio. Dagli Stati Uniti arriva il dato sul PIL americano nel quarto trimestre, l'ultimo del 2015. Il dato è sopra le attese degli analisti, è infatti più 1,4%. Comunque la crescita resta più debole di quella dei primi tre trimestri, che era del 2,2%, e quindi certifica un rallentamento dell'economia mondiale e anche statunitense per quello che riguarda l'ultima parte dell'anno, però leggermente migliore, tant'è che comunque la Casa Bianca dice la revisione al rialzo del PIL statunitense mostra la solida domanda interna, cioè i consumi americani, che sono quelli che mantengono in questo momento la crescita del PIL statunitense, ma mostra anche come la più debole crescita internazionale abbia continuato a pesare sull'economia statunitense nel quarto trimestre. Dato sul PIL oggi anche della Francia, è riferito al 2015, più 1,2%, superato anche l'obiettivo del governo che era di 1,1, per un effetto di leggere revisioni di differenti aggregati. Vabbè, comunque 1,2% è la crescita del PIL francese nel 2015. Venendo invece alla fusione italiana tra Banco Popolare e Popolare di Milano, oggi arriva un giudizio positivo anche dell'agenzia di rating Moody's. Dice: positiva per le due banche e per il sistema bancario italiano. Le due banche insieme saranno in grado di navigare in un contesto competitivo e nel lungo termine la fusione dovrebbe portare risparmi nei costi e a una maggiore diversificazione dei ricavi. Il Monte dei Paschi invece ha smentito le indiscrezioni comparse oggi sul Fatto Quotidiano relativo a una richiesta della Banca Centrale Europea per un nuovo ulteriore aumento di capitale che potrebbe arrivare fino a 3 miliardi. Tra l'altro aggiunge la nota che la divulgazione di notizie destituite da ogni fondamento in un contesto così complesso non può che recare ulteriore instabilità e danno al sistema bancario, al mercato e agli investitori. Nel frattempo Monte dei Paschi sta per cedere un nuovo pacchetto di oltre 220 milioni di crediti deteriorati, le sofferenze, su un totale di oltre 3 miliardi che deve cedere entro il 2018. Il portafoglio complessivo era di 5 miliardi e mezzo, Monte dei Paschi ne ha già ceduti 2 miliardi, ne aveva già ceduti 2 miliardi a fine del 2015. Una notizia in breve prima di passare alla nostra classifica: la Guardia di Finanza oggi ha scoperto una frode milionaria nel settore del commercio dell'oro, che già nel passato era stato oggetto di inchieste, indagini, i sospetti di riciclaggio soprattutto, ma insomma su questo le perquisizioni hanno riguardato 14 province, 47 gli indagati. L'operazione si chiama Marchio Sfrenato, coinvolge 36 società e la filiale romana di una banca nazionale dove ci sono società fittizie che avevano aperto conti correnti utilizzati per le frodi. Tra l'altro tra il 2013 e il 2014 il sistema di cessione e rivendita dell'oro dalle società sane a quelle, diciamo, fittizie aveva permesso una frode dell'IVA per 25 milioni di euro. Allora, 349-238-6666 per gli sms e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. E ancora vedo grazie per gli auguri, li girerò a tutta la redazione di Radio 24. Partiamo, mi rendo conto che sia Pasqua, però insomma quasi Pasqua, per cui In questo caso l'uovo pasquale è fatto di cioccolato amaro, perché quello che stiamo per leggere, come sempre durante la classifica, è decisamente poco edificante. La classifica della settimana. Allora, oggi una classifica un po' strana, perché diciamo il primo e il secondo posto vanno allo stesso soggetto, o meglio a due aspetti dello stesso soggetto, ma adesso vi arriveremo. Partiamo come sempre in basso, quindi dal quinto posto. Quinto posto che se lo aggiudica la vigilessa Adriana Fausto. No, sorrido perché questo è uno di quei casi che ogni tanto raccontiamo, in cui io mi chiedo come si possa anche, con quale faccia si possa mettersi nelle mani degli avvocati e presentare un ricorso urgente al giudice del lavoro. Che cosa è successo? È successo che la vigilessa Adriana Fausto è stata accusata di truffa, e il provvedimento che ha preso la commissione disciplinare del comune è stato quello di sostanzialmente sospenderla per 6 mesi dal lavoro e senza la possibilità di percepire lo stipendio. Che cosa era successo? Il processo si terrà il prossimo 10 ottobre. La ricostruzione del periodo in cui Adriana Fausto è stata assente per malattia ha fatto emergere un insieme di anomalie nella sua condotta. Allora, i certificati medici che la gente portava riguardavano un problema al ginocchio che l'aveva afflitta, e per questo stava in malattia. Il disturbo, e qui entriamo nei casi diciamo più tra Lourdes e Medjugorje, il disturbo però non le impediva, quando era in malattia, un disturbo al ginocchio, di partecipare a due gare di atletica leggera. E ricordo un po' il caso di quel dipendente che stava male di stomaco, dove era al comune di a Roma, che forse un dipendente ATA, adesso vado a ricontrollare, che lui era sempre indisposto di stomaco, proprio la sera andava a cantare ed era uno specialista di Califano, se non ricordo male. No, in questo caso abbiamo una persona che deve stare a casa per un periodo lungo di malattia per un male al ginocchio, però nel frattempo riesce a partecipare a due gare di atletica leggera, questo è del miracoloso, una delle quali riesce anche a vincerla nella specialità del salto in lungo, che con un male al ginocchio è difficile. Ma quello che mi fa impazzire è che la vigilessa in questione, pensando di essere comunque in regola, visto che la gara l'avevano vista impegnata nei giorni che precedevano il rientro al lavoro, aveva postato su Facebook le foto dal podio e si vedeva anche sul web la classifica a cui si era iscritta. Contro la sospensione del servizio si rivolge il suo avvocato, il legale Roberto Trevia, che ha presentato un ricorso urgente al giudice del lavoro dicendo: ma si può lasciare così a lungo senza stipendio un proprio dipendente per punizione, facendogli mancare del tutto il sostegno economico? Per punizione sì, quando tu attesti, secondo l'accusa pesantissima, il falso. Cioè, si chiamano punizioni, avvocato. Andiamo al quarto posto, rientrano, sempre in tema di dipendenti pubblici, rientrano i furbetti del mitico comune di Sanremo, non tutti, sono 190 i furbetti del cartellino coinvolti nello scandalo. Per 3 dei 190, puniti a livello disciplinare con 6 mesi di sospensione, sono tornati alla scrivania in attesa di capire qualcosa di più sul loro futuro, spiegano i legali. Ovvero quando e in quali giorni, a seconda delle necessità dell'amministrazione comunale, saranno scontati i giorni di sospensione, e se in quale modo i mesi già passati lontano dal posto di lavoro potranno essere scalati dalla pena. Sono rientrati al lavoro anche per carenza dei dipendenti al comune di Sanremo. Sconteranno i 6 mesi di sospensione a seconda di una precisa programmazione basata sulle esigenze lavorative del comune, indicate dai vari dirigenti dei settori interessati. L'ufficio del personale sta cercando di assumere quello che le norme ci concedono. Forse una decina di dipendenti tramite mobilità o graduatorie, lo spiega sempre il sindaco di Sanremo Biancheri, perché sostiene ci sono uffici in ginocchio come quelli dell'edilizia pubblica e privata, l'anagrafe e l'ufficio finanze. Mancano i dipendenti, abbiamo già scritto il mese scorso sia al governo che alla regione per permetterci di fare i concorsi necessari per assumere le professionalità più specifiche che servono all'interno del comune. Perfetto, controllate poi anche che lavorino però. Ah, giustamente vedo i messaggi che ci chiedono ma di qua, a quale comune, ho dimenticato di dirlo, appartiene la Vigilessa. È sempre in Liguria stiamo parlando, perché il comune era quello di Imperia per la Vigilessa Adriana Fausto. Andiamo su cose invece, andiamo al terzo posto della classifica, su cose che non hanno a che fare con il mal costume ma proprio con lo spreco di risorse. E qui veramente non so più come metterla nei confronti della Calabria, perché noi spesso ci occupiamo della Sicilia, ma guardate che la Calabria è... Allora, è un disguido procedurale, ma diciamola tutta, l'incapacità dell'amministrazione calabrese ha permesso, diciamo così, la perdita secca di oltre 20 milioni di euro di fondi europei destinati all'agricoltura. Ora, chi ascolta questo programma sa che da tempo, diciamo, e siamo d'accordo in questo con il governo, che bisogna chiedere all'Europa maggiore flessibilità per gli investimenti. Però se non riusciamo in certe regioni a spendere nemmeno quei pochi soldi che l'Europa ti dà e te li dà soprattutto sull'agricoltura o per i famosi piani di convergenza sulle regioni depresse, poi bisogna stare attenti. Perché dunque, questi 20 milioni di euro erano le risorse del programma di sviluppo rurale 2007-2013 per la Calabria, dovevano essere spesi entro il 31 dicembre del scorso, torneranno a Bruxelles perché c'è un meccanismo che si chiama il disimpegno automatico, se tu non riesci a impiegarle tornano automaticamente a Bruxelles e poi vengono redistribuite per altre regioni più depresse. Allora, la Calabria tra l'altro è, dopo Campania e Puglia, la regione che ha perso più soldi dei piani di sviluppo europei, è praticamente seconda in termini percentuali. La media italiana delle risorse non utilizzate è stata in pari all'1,3%. La Calabria è riuscita a perdere più del 3% dell'intera dotazione, che rappresenta da sola la Calabria il 20% di tutte le risorse non sfruttate dall'Italia. Non è riuscita a spendere in 7 anni l'intera dotazione per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese. Tra l'altro, la cosa pazzesca è che l'ultimo tranche, questi 20 milioni, vengono rispediti a Bruxelles per un difetto di comunicazione tra il Dipartimento Agricoltura e l'ARCEA, l'organismo pagatore regionale delle risorse destinate al settore. Praticamente il Dipartimento Agricoltura della Regione ha istruito le pratiche per saldare le iniziative finanziarie con i fondi europei agricoli per lo sviluppo rurale, rimandate poi indietro ai tecnici dell'ARCEA per un'errata valutazione del capitolo di bilancio predisposto per effettuare i pagamenti con risorse dell'Unione Europea. Allora, bastava sostanzialmente che qualcuno comunicasse all'altro l'esatto ammontare di quanto rimasto sul fondo di competenza. Non l'hanno fatto. E c'è di più, l'importo disimpegnato ha generato un altro danno per il comparto, perché in questo modo sono riusciti a perdere anche la quota di compartecipazione. I fondi europei si attivano infatti se c'è una quota anche di fondi italiani, l'Europa ne dà una parte e un'altra parte la dà l'Italia. Così la Calabria è riuscita a perdere 20 milioni europei e 14 milioni che sarebbero scattati come compartecipazione italiana. Questo avrà un effetto anche sulla prossima programmazione, che non è nemmeno partita, un programma infatti si considera avviato quando vengono pubblicati i primi bandi. Quindi alla fine si è riuscito a perdere 34 milioni di euro per l'agricoltura calabrese, che notoriamente non ne ha bisogno. Io chiedo una cosa, ma adesso l'ARCEA e il Dipartimento dell'Agricoltura, i dirigenti responsabili pagheranno per questa incapacità di fare il minimo sindacale del loro lavoro, il minimo sindacale. Parliamo di un errore addirittura di comunicazione, cioè non si sono chiariti su quanto fossero le risorse rimaste. Chiedo. Oh, dai 20 milioni della Calabria, anzi 34, 20 europei più 14 italiani, andiamo, dopo il meteo e la pubblicità, al secondo e il primo posto che diciamo questa settimana non possiamo non assegnare allo stesso soggetto che fa un incetto come una nazionale che beccasse sia la medaglia d'oro che quella d'argento. Ci risentiamo dopo il meteo. 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. Focus Economia. And the winner is... Oh, torniamo sul luogo del delitto, le ferrovie del sud-est. Io mica me ne ho reso conto quando ce ne siamo occupati due settimane fa del germinaio che fosse dentro. Le ferrovie del sud-est, quelle diciamo pugliesi, si beccano questa volta sia il secondo che il primo posto e vanno tenuti assieme. Perché? Perché uno non capisce come mai per così tanti anni l'andazzo sia stato quello che hanno scoperto poi i neovertici. E quindi quando è arrivato il nuovo presidente Andrea Viero, nominato dal ministro Graziano Del Rio per rimettere a sesto la società, e ha detto no, qui il commissariamento è inevitabile, non si capisce come mai i vertici, nella persona dell'amministratore unico Luigi Fiorillo, che ha trascorso alle ferrovie del sud-est ben 23 anni, beh, potessero operare tali e tanti sprechi ad essere buoni, se non fa il paio con il secondo posto della classifica, ossia gli sprechi del personale e i permessi sindacali. Ora, io non voglio dire nulla, però il sospetto che a tutti andasse bene questo andazzo e quindi andasse bene anche i sindacati, visto l'alto numero di incidenze dei permessi sindacali alle ferrovie del sud-est, è un sospetto fortissimo, se no non si capisce perché non sono mai arrivate denunce sulla malversazione, sulla cattiva gestione. Allora, partiamo dai dipendenti, perché nella relazione dei commissari i 1300 dipendenti delle più grandi ferrovie in concessione d'Italia, beh, hanno alcune particolarità. In primo luogo, su 1300 dipendenti ci sono 1400 cause di lavoro, è già interessante. I costi del personale ammontano al 50% del valore di produzione, 73 milioni di euro. La parte significativa del costo del personale è molto singolare, è connessa alla contrattazione di secondo livello, che mostra un'incidenza sui costi totali del 25%. La contrattazione di secondo livello si dà per la parte, insomma, che dovrebbe essere più flessibile del contratto ed è legata alla produttività, ai conti di un'azienda, non è un modo per far entrare dalla finestra bonus aggiuntivi. Allora, infatti i commissari hanno disdetto tutti gli accordi sindacali di secondo livello. Poi c'è un'elevata incidenza di risorse adibite ad attività di supporto operativo presso le funzioni centrali. Sapete cosa sono? Sono le persone di staff dei vertici. Erano 180 addetti, cioè il 15% dei dipendenti delle ferrovie del sud-est era di supporto ai dirigenti, di staff. E poi segnalano altri 60 dipendenti non idonei a svolgere le mansioni assegnate. 60. Andiamo avanti. C'è una parte poi di dipendenti, ci sono 5 dipendenti che le ferrovie del sud-est hanno mantenuto nella loro sede di Roma, perché pensate un po', avevano pure la sede a Roma, che tu ti chiedi ma cosa c'entra la sede a Roma delle ferrovie del sud-est che devono collegare, sono la rete ferroviaria della Puglia, boh. Però per mantenere gli uffici nella capitale nel solo 2014 le ferrovie del sud-est hanno speso 1.600.000 euro, di cui 1.400.000 euro per i famosi 5 dipendenti, e quindi qualcuno stava bene anche a livello di dipendenti. La cosa incredibile è che sui permessi sindacali non si riesce nemmeno ad avere il numero preciso di permessi e di stacchi sindacali concessi appunto ai dipendenti con funzioni sindacali. E poi c'è la partita aperta per chiudere il contenzioso con i dipendenti legato alla mancata erogazione del TFR. Allora, il sospetto che tutto questo andazzo per i dipendenti poi permettesse ai vertici di fare quello che sto per raccontare è il motivo per cui abbiamo dato alle Ferrovie del Sud-Est sia il secondo che il primo posto. Il primo posto, infatti, qual è? Allora, quanto prendeva, secondo voi, Luigi Fiorillo, visto che ci ha lavorato 23 anni? Formalmente, tra il 2006 e il 2012, il suo stipendio di amministratore unico delle Ferrovie del Nord-Est non era del Sud-Est, scusatemi, non era altissimo, era di 48.000 euro l'anno, per cui ha preso 240.000 euro nel periodo tra il 2006 e il 2012. Il suo compenso effettivo in realtà ha raggiunto i 13.750.000 euro, praticamente 1.145.000 euro per ogni anno di quei 12 anni. Io mi chiedo come posso un amministratore unico di Ferrovie scassate perché mentre quello che sto per raccontare avveniva, i pugliesi viaggiavano, i pendolari già furibondi, viaggiavano su treni che hanno un'età media di oltre 20 anni e locomotori del 1959. Manca solo il fuochista per il carbone. Il parco autobus, perché hanno anche gli autobus, su 320 mezzi ne ha 90 inutilizzabili, siamo quasi uno su tre, no? Però ciò nonostante lui ha preso 1.145.000 euro all'anno per 12 anni. Come ha fatto a prendere in tutto quasi 14 milioni di euro in 12 anni? Perché oltre al suo compenso da amministratore c'erano altre voci incredibili. Cioè, tu fai l'amministratore unico, ma hai anche un contratto da co. Ma come? Sei amministratore unico di... Boh. Che nei tre anni, dal 2004 al 2006, gli frutta 7.161.000 euro. Io sfido qualunque co a guadagnare 2.400.000 euro l'anno. Poi aveva altre forme che inseriva, per cui alla fine il compenso alla faccia dei 48.000 euro l'anno arrivava alla stratosferica cifra di 13.750.000 euro. Mi chiedo se non sia possibile intentare anche una causa all'amministratore unico Fiorillo, perché insomma non è possibile che uno si becchi i soldi, moglie le Ferrovie del Sud-Est in quel modo e poi passa dalla festa gabbato lo santo, eh? Allora, non c'era solo lui, l'andazzo era un po' complessivo. Pensate che il capo del personale prendeva 220.000 euro l'anno, che è una cifra alta per fare capo del personale alle Ferrovie del Sud-Est. Ma la cosa più incredibile è che lui non lavorava a Bari, ma all'ufficio di Roma. Di nuovo questo ufficio di Roma. Cioè il capo del personale dei dipendenti che stanno tendenzialmente in Puglia sta a Roma. E tra l'altro, siccome ogni volta che andava a Bari, perché doveva seguire le cose da Bari, beccava pure l'indennità di trasferta, 98 euro all'ora. Forse per questo che non si è mai mosso l'ufficio di Roma. Boh, chi lo sa. E poi le consulenze. Allora, cioè, era una macchina bella generosa quella delle Ferrovie del Sud-Est. Pensate che nella relazione dei commissari vengono citati i 12 incarichi in 3 anni, di cui 6 incarichi in un giorno solo nel 2014, per un totale di quasi 300.000 euro attribuiti allo studio Vernola, che è uno studio barese importante, famoso anche perché uno dei soci, Marcello Vernola, è stato presidente della provincia di Bari e parlamentare europeo di Forza Italia. Ma non c'entrerà nulla, lo diciamo solo come dato di cronaca, ci mancherebbe. Altre voci? Dunque, nelle schede contabili i commissari scoprono che gli onorari liquidati dalle Ferrovie del Sud-Est allo studio Schiano dal 2001 a oggi sono stati pari a 27 milioni di euro. Ora io capisco tutto, ma vorrei capire come fanno le Ferrovie del Sud-Est a pagare per consulenze quasi 30 milioni di euro. Ma tra l'altro si è comunque creato con questo studio Schiano uno scaduto che ammonta ad altri 15,8 milioni. Quindi praticamente, uno deve veramente, le Ferrovie del Sud-Est hanno pagato 43 milioni di euro di consulenze a un solo studio Schiano. Vabbè. Per cosa poi? Lo chiedo veramente, per cosa? Cioè, rendiamoci conto che le Ferrovie del Sud-Est, nella gestione Fiorillo, Luigi Fiorillo, sono riuscite a spendere in 10 anni 132 milioni di euro di consulenze per un'azienda che ne fattura più o meno 150 all'anno di milioni e ha 311 milioni di debiti. Okay? E ha sede a Bari, gestisce 1000 km di binari più gli autobus. Ha 300 milioni di debiti, fattura 150 milioni l'anno, ma è riuscita a spendere in 10 anni 132 milioni di consulenze. Chiudiamo con le forniture. I commissari sono arrivati e hanno rinegoziato le forniture di gasolio. Pensate che solo rinegoziando i prezzi, evidentemente qualcuno ci mangiava, dai, non giriamoci troppo attorno. Solo per rinegoziare le forniture di gasolio sono riusciti a risparmiare 200.000 euro al mese. Rinegoziando le polizze assicurative risparmiano 1 milione di euro all'anno, anche perché queste cavolo di polizze assicurative di proroga in proroga le aveva gestite per 12 anni sempre lo stesso broker, sempre con la stessa compagnia. Ma dico, siccome gestisci i soldi pubblici, vai a fare una gara a vedere chi ti offre di meno? Non è possibile che arrivino i commissari e tac, in un attimo riescono a scontare 1 milione di euro all'anno in meno per le polizze assicurative. Sarebbe interessante però capire i broker e compagnia assicurativa che rapporti avessero con Luigi Fiorillo e con altri, perché a questo punto sospetto dobbiamo levarcelo, è solo un sospetto ma dobbiamo levarcelo, ok? Pensate, lo dico anche perché quando 2 anni fa per caso l'appalto per le polizze assicurative viene vinto da un'altra compagnia, l'amministratore unico Luigi Fiorillo annulla la gara e la riaffida alla solita ditta, al solito broker di polizze assicurative. Tutto regolare? Beh, sì, se ti piace così. Allora, il primo posto va ai sindacalisti delle Ferrovie del Sud-Est, che non si sono accorti di nulla in questi anni, ma nel frattempo si sono ben accorti dei diritti che avevano sui permessi sindacali. Ai dipendenti che nulla hanno detto, evidentemente tutti quanti erano contenti in questo modo, adesso si trovano un po' in difficoltà, e soprattutto a Luigi Fiorillo e diciamo a tutto questo mondo di consulenti di cui si è attorniato, anche perché, ripeto, spendere 132 milioni di euro di consulenze non è far consulenze, è creare consenso. Vabbè, ci siamo su questo, l'ha fatto anche, è indagata anche gli ex vertici della Popolare Etruria per lo stesso motivo, perché non si capiscono i motivi di 15 milioni di euro di consulenze. Qui siamo a 132 milioni di euro di consulenze. Siccome non posso fare l'elenco di tutti i nomi, si prende l'applauso per sé, per i consulenti, per il broker assicurativo, per lo studio Schiano, per lo studio Vernola, per i sindacalisti distaccati, per i dipendenti a Roma, per il capo del personale. A nome di tutti questi l'applauso lo facciamo solo a Luigi Fiorillo. Bari mi scrivono che il cognome è Vernola, quindi chiedo scusa, Vernola. Sarà tutto legale, io non dico che non debba essere pagato, voglio capire però perché uno spende per le Ferrovie del Sud-Est, ridotte nello stato schifoso in cui sono ridotte, 132 milioni di euro di consulenze, sono soldi nostri, ci spieghino perché, che cosa sono servite queste consulenze, che cosa hanno migliorato, come mai sempre gli stessi. Eh no. Tanto scriveranno, scrivete, e poi se sono avvocati, figurati se non scrivono. Oh, allora, dopo il traffico andiamo sugli enti virtuosi. Focus Economia. Oh, cerchiamo di diventare tutti più buoni. Diciamo di non deprimerci sotto Pasqua, perché l'associazione guidata dal presidente emerito della Camera dei Deputati Luciano Violante, che si chiama Italia Decide, che si batte da anni per la qualità delle politiche pubbliche, ha premiato nel presentare il 7° rapporto dedicato alle, appunto, alle politiche pubbliche, alle aziende pubbliche, ha premiato due strutture sanitarie che abbiamo ospiti, e quindi ringrazio da un lato il dottor Mario Cavalli, che è direttore generale del Policlinico Sant'Orso Malpighi di Bologna. Buonasera. Buonasera, Bisoni. E buonasera anche a Giuseppe Nicolò Cugno, che è direttore generale del Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, si chiama CROB, se ho ben capito l'acronimo. Buonasera anche a lei. Buonasera, dottor Barisone. Allora, io vorrei partire da Cugno, lo dico senza retoriche, però insomma, fatemela dire, quando l'eccellenza nella gestione della cosa pubblica raggiunge anche le regioni del nostro Sud, io sono ancora più contento, perché purtroppo hanno spesso ampio spazio nella nostra poco invidiabile classifica. Come si fa, Cugno, a creare un centro di eccellenza senza sprecare i soldi pubblici? Voi avete 430 dipendenti, 5.600 ricoverati per 118 posti letto per acuti e 8 posti per cure palliative, 60 ricercatori che sono impegnati in vari test nazionali e internazionali. La domanda è molto semplice: come si fa non tanto a vincere il premio, ma a ridurre gli sprechi, i ricoveri inappropriati e efficientare, rendere produttiva al massimo una struttura oncologica? La domanda non è che sia poi tanto semplice, per la verità. No. Forse in realtà gestire una struttura piccola diventa un po' più facile, ed è il sistema di relazioni immediato che si ha per convincere, per parlare, per condividere le problematiche e cercare insieme di creare una struttura che possa essere efficiente così ed efficace, come dice lei. È un sistema di relazioni che abbiamo messo su da un po' di tempo, ed è anche un sistema in qualche modo fatto da gente che ama il proprio lavoro, ama trattare i pazienti oncologici che ci sono in Basilicata. È un po' lo spirito lucano, quello che poi forse è quello vincente. Però voi riuscite ad avere il tasso di assenza media del personale, sì, tra i più bassi d'Italia, 6 giorni all'anno, sì. Un po' come il comune di Roma, dove 1 su 5 ogni giorno che Dio manda in terra è a casa, lo so, è quasi è più del 20% il tasso di assenteismo. Qualcuno mi ha scritto, ma è perché il comune deve sempre stare aperto. Vabbè, ho capito, allora tutti i posti che devono sempre stare aperto, 1 su 5 sta a casa, ma che cosa state dicendo? E siete riusciti anche, con un fatturato di 50 milioni di euro, ad avere introiti aggiuntivi per la cosiddetta immigrazione sanitaria. Ce la racconta questa? Sì, in realtà il nostro centro vive di circa il 47% di persone che vengono da fuori regione e quindi si trovano bene, trovano le condizioni per avere delle cure e anche un'accoglienza importante. Quindi abbiamo investito molto, oltre che sulla qualità delle prestazioni e sulla tecnologia, anche sulla umanizzazione del paziente. Per noi il paziente non è una cosa, è una persona. Rispettiamo tutti la dignità di questa persona, e in realtà non è nemmeno un oggetto quello dell'attenzione e delle cure, è in realtà un protagonista. E recentemente stiamo sviluppando delle politiche di medicina narrativa per farlo sentire al ecco, dopo il GR24 resti con noi, chiaramente, Cavalli, ma anche lei, Cugno, perché vorrei chiudere sulla parte che riguarda il Centro Oncologico della Basilicata, per il progetto che avete avviato attraverso le tecnologie, l'ICT. Sono importantissime per capire, appunto, poi tutto questo richiede anche un po' di innovazione. Poi passiamo invece al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. Focus Economia. :18 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e vorrei concludere anche l'intervista con, da un lato, il direttore generale del Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, Giuseppe Nicolò Cugno, e iniziare invece quella col direttore generale del Policlinico Sant'Oro sulla Malpighi di Bologna, Mario Cavalli, perché ambedue sono stati premiati dall'Associazione Italia Decide, che premia appunto i casi virtuosi di politiche pubbliche. Sono due ospedali. Do solo una risposta a un ascoltatore che continua a dire: ma insomma, gli sprechi ci sono sempre stati, e poi con una deflazione in atto questi sprechi fanno sopravvivere l'economia del reale. No, guarda, gli sprechi sono solo sprechi. Uno spreco è uno spreco è uno spreco, ok? La teoria per cui diciamo sì, per carità, questo avrebbe poi portato una ricaduta comunque sull'economia reale è una balla. È come dire che la mafia, la 'ndrangheta e la camorra di fatto arricchiscono il territorio. I territori vengono impoveriti dagli sprechi, anche perché finiscono questi soldi appunto tutti, nel caso specifico di Luigi Fiorillo del sud-est, delle ferrovie del sud-est. Non è vero che poi vengono dati sul territorio. I territori crescono quando gli sprechi sono ridotti, la corruzione è ridotta, e allora lì hai una distribuzione efficiente delle risorse economiche. Non raccontiamoci cavolate, perché in questo modo, con l'idea che tanto si potesse sprecare perché restava, abbiamo accumulato il debito più grande dell'Unione Europea, il secondo debito più grande al mondo. Allora, dicevo, Cugno, voi avete, come il Centro Oncologico della Basilicata, avete anche avviato un progetto forte per ampliare i servizi con l'utilizzo delle tecnologie, dell'ICT. Che cosa prevede questo? Dunque, noi siamo partiti da un'osservazione: una regione molto grande, bassissima densità abitativa, 131 comuni, di cui la stragrande maggioranza con meno di 5.000 persone, 23 addirittura con meno di 1.000 persone, una viabilità molto infelice, e praticamente questi nostri pazienti, in qualche modo, una volta usciti dall'istituto, finivano per essere un po' abbandonati a se stessi e spesso ricorrevano a ospedali e a pronti soccorsi degli ospedali di zona. A questo punto c'è stata una situazione, oppure una coincidenza di eventi sincronici sostanzialmente. Le indicazioni del Ministero della Salute ci sono chiare. Presidente della Regione Basilicata molto orientato alla innovazione, che ci ha sostenuto, e poi una discussione con una multinazionale dell'informatica che ci ha voluto individuare come un SPOC per le sue sperimentazioni in sanità, e ci ha dato gratuitamente tutte le tecnologie. Abbiamo provato a coniugare sostanzialmente quello che poteva sembrare un ossimoro, cioè la tecnologia informatica con la umanizzazione del paziente. E in questo modo abbiamo collegato i medici di medicina generale, abbiamo fatto anche un accordo con loro, gli ospedali di zona, e in realtà abbiamo fatto questo progetto, un progetto che si basa sulla teleconsulto, dell'assistenza, la possibilità a noi di discutere dei casi sia con gli ospedali sia con i medici di medicina generale, la possibilità di visitare il paziente insieme, di trasmettere, di mandare anche le ricette. Adesso le ricette sono dematerializzate, quindi piani terapeutici, e addirittura quella cosa che io credo ancora più innovativa, la possibilità di fare un teleambulatorio infermieristico. Spesso l'assistenza domiciliare è affidata ad infermieri diciamo che non hanno estrema competenza, soprattutto in materia di gestione di pazienti oncologici più complessi, e la possibilità di avere dall'altra parte dei colleghi con cui discutere, per esempio la gestione di un catetere venoso a domicilio o qualche cosa di analoga, ci è sembrato molto importante. Partito questo servizio, oltretutto noi, che in realtà crediamo che abbia una serie di vantaggi, alcuni vantaggi per l'istituto, ovviamente, che fidelizza i pazienti e quindi costruisce una rete di protezione intorno a un paziente fragile. Per il paziente, soprattutto per i nostri pazienti che hanno, diciamo così, hanno difficoltà di accesso alla struttura e quindi possono essere visitati o comunque possono avere ricevere l'assistenza per il medico di medicina generale. dico anche per gli utilizzatori, perché sia i medici ospedalieri degli ospedali di zona, sia i medici di medicina generale hanno la possibilità di un confronto continuo con tutti i nostri specialisti, e ovviamente c'è un ritorno molto importante per il sistema sanitario e per il sistema sociale, perché si riducono in questo modo gli accessi ai pronti soccorsi, quindi c'è una maggiore appropriatezza delle prestazioni, c'è una reale integrazione con il territorio, si riducono comunque dei costi, anche se poi l'aspetto dei costi è fondamentale, però noi in questo momento stiamo guardando al paziente, alla persona. Allora, ma tra l'altro voi appunto avete un 40% di immigrazione sanitaria, immagino anche dalla Puglia, regione limitrofe, che vi genera 4 milioni di euro di introiti. Grazie a Giuseppe Nicolò Cugno, se vuole resti con noi. Direttore Cavalli, uno dice vabbè, fa notizia l'eccellenza al sud, fa meno notizia l'eccellenza nel centro-nord. Mica tanto, perché voi avete 4.900 studenti e medici, 68.000 ricoveri l'anno, 1.560 posti letto e 5.323 persone in organico, con un diciamo un giro d'affari, è una parola brutta, diciamo, con un valore della produzione pari a 560 milioni di euro. Come siete riusciti a riorganizzare tutta l'attività del policlinico, quindi ridistribuendo per esempio i soldi risparmiati tra i dipendenti della struttura? La ristorazione l'avete riorganizzata, risparmiate 800.000 euro l'anno per 3 anni, internalizzate un insieme di operazioni di controllo, altri 200.000 euro l'anno. Ci vuole più un manager o un medico per fare queste cose? Perché lei... Io sono un medico. E lei è medico, appunto. Ma io sono un medico, sì. Come medico Cugno, non l'ho detto, ma è un medico anche Cugno. Per cui un medico può essere anche manager. Non lo dico perché sennò sembra che non si riesca mai a scalfire la macchina anche degli sprechi nella sanità pubblica. Prego. Beh, sono un medico, ma ovviamente lavoro con collaboratori che sono esperti per quanto riguarda le norme che si possono applicare. Ma avete incontrato resistenze nel riorganizzare? Non so, perché prima criticavo i sindacati delle Ferrovie del Sud-Est, di cui non ho notizia. Questi processi di cui stiamo parlando, abbiamo fatto gli accordi con i sindacati, quindi non è stato difficile. Si tratta della possibilità di applicare una norma di legge che prevede la possibilità che nell'ambito di processi di riorganizzazione che devono essere certificati dal punto di vista del risparmio che si intende ottenere, è possibile che fino al 50% del risparmio ottenuto possa essere dato al personale dipendente. Nel caso specifico abbiamo attuato 2 progetti, uno che riguarda la ristorazione. Noi siamo un'azienda che ha una gestione diretta dell'attività di preparazione dei pasti sia per personale dipendente sia per i ricoverati, quindi abbiamo una cucina interna. Abbiamo fatto alcune operazioni di riorganizzazione che ci hanno permesso di risparmiare sia dal punto di vista degli acquisti del materiale delle derrate alimentari, sia dal punto di vista dell'organizzazione del personale addetto alle cucine. E questo progetto appunto ha permesso di risparmiare circa 800.000 euro all'anno per 3 anni. E come le dicevo, queste norme di legge prevedono la possibilità di riversare fino al 50%, noi abbiamo fatto una scelta di riversare il 40% del risparmio, cioè circa 400.000 euro all'anno riferiti a questo progetto e a un altro progetto analogo che riguarda l'internalizzazione del controllo dei fumi. E queste cifre abbiamo fatto un accordo con i sindacati per cui il 50% del risparmio riguarda il personale addetto ai servizi oggetto di ristrutturazione e l'altro 50% del risparmio a tutto il personale dipendente dell'area del comparto. Così risponde lei, non io, a quell'ascoltatore che diceva ma anche gli sprechi creano economia. No, questo crea economia, cioè risparmia la pubblica amministrazione e ridistribuisci i soldi onesti e sani ai dipendenti. L'avessero fatto anche le Ferrovie del Sud-Est, non avrebbero un buco da 300 milioni di euro, i dipendenti guadagnerebbero un po' di più, gli sprechi sarebbero stati meno, magari certo bisognava avere meno permessi sindacali e levare il contratto da Coco a Luigi Fiorillo, tutto il giorno che lo dico sto nome. Sento una cosa, però il fatto che voi risparmiate 800.000 euro all'anno per 3 anni sui pasti, vuol dire che li pagavate troppo prima? No, prima consumavamo troppe risorse, avevamo più personale addetto alle cucine, avevamo alcuni processi di acquisizione dei beni che venivano utilizzati che costavano di più, e quindi il risparmio è derivato da queste operazioni che noi abbiamo fatto, ovviamente cercando di salvaguardare la qualità del cibo che viene servito, intendendo il cibo come una componente importante nei percorsi di cura dei pazienti. E volevo dare riferimento all'articolo 16 del decreto legge 98 del 2011. Sì, che alcune amministrazioni evidentemente non conoscono, preferiscono non conoscere, perché quello è un articolo virtuoso, cioè io risparmio, posso dare il 50% dei miei risparmi e ridistribuirlo ai dipendenti, così tutti abbiamo un incentivo, scusatemi, a comportarci meglio, a risparmiare. E dopo il traffico, visto che parleremo di quanto ha deciso oggi il Consiglio dei Ministri in tema di patto di stabilità interno, quindi le risorse che i comuni possono spendere, vi chiederò una cosa, vi chiedo una risposta molto sintetica, sia a lei che a Cugno, che è ancora in collegamento, un messaggio da dare ai vostri colleghi amministratori di strutture ospedaliere o di altra cosa pubblica, cioè perché non si riesce a estendere questo percorso virtuoso, secondo voi, in tutto il paese? La risposta dopo il traffico, 349-238-6666 per sms, whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, per favore, fatelo voi, Cugno e da questo punto di vista non solo Cugno, ci mancherebbe anche Cavalli. Cugno, cosa manca alle altre strutture? Un consiglio, un minuto. Io credo che il sistema sanitario nazionale sia un sistema tutto sommato molto, molto, molto valido. Percorsi virtuosi ce ne sono dappertutto. Probabilmente stiamo scontando alcuni cattive abitudini del passato, alcune incrostazioni, manca forse un po' di motivazione. Credo che con una motivazione maggiore, bisogna crederci nei percorsi, nei processi che si avviano. Anche il rischio licenziamento è una motivazione delle volte, nel senso che se fa il dirigente, la motivazione se la deve dare, se no va a casa. La valutazione resta un fatto importante, perché sia una valutazione seria. Fatta anche non a tempi molto lunghi, deve essere fatta a percorsi brevi. Guardi, d'accordissimo su questo. Cavalli? Concordo con Cugno. Esempi di buona amministrazione ne esistono tanti. Io ritengo che sia importante il confronto, il bench tra aziende per conoscere le esperienze, i provvedimenti che sono stati adottati anche presso altre aziende sanitarie che possono essere utilizzate a casa propria. Noi lavoriamo in una regione Emilia-Romagna, dove gli obiettivi che sono stati assegnati alle direzioni generali di tutte le aziende sanitarie sono molto stringenti e molto cogenti. L'applicazione di questi obiettivi ci ha permesso e ci ha consentito di ottenere dei risparmi, ad esempio procedendo con l'unificazione di una serie di servizi di area tecnico-amministrativa, dove la semplice unificazione di queste funzioni tra più aziende consente di ottenere dei risparmi, evitando la duplicazione delle funzioni presso le singole aziende. Diciamola tutta, ha ragione lei nel dire che bisogna informarsi, i casi virtuosi, metterli a confronto, tutto questo è vero, e distribuire, diffondere anche questi modelli virtuosi. Però io nel ringraziarvi e augurarvi in bocca al lupo, quindi sia per quello che riguarda il centro oncologico della Basilicata che il Policlinico Sant'Oro sulla Malpighi, vi dico che in primo luogo ci vuole la volontà, okay? Non è per echeggiare De Gregori, però senza la volontà, e la volontà delle volte non arriva perché fa comodo fare così, perché hai più consenso, la volontà anche dei sindacati, del pubblico impiego, che devono tirare su la testa, se gli è rimasta una testa, tirare su e chiedere efficienza, licenziamenti, produttività e quant'altro, perché sono soldi nostri. Grazie, in bocca al lupo a voi e soprattutto ai vostri pazienti, e andiamo a Gianni Trovati. Gianni Trovati, che a cui avrei, non so se hai ascoltato, Gianni, i casi virtuosi premiati appunto come enti virtuosi quest'anno dall'Associazione Italia Decide, due ospedali, uno in Basilicata, uno in Emilia Romagna, ma insomma si può fare, non è che possiamo raccontare solo gli sprechi. Con te invece parliamo della decisione del Consiglio dei Ministri che, se ho ben capito, mette la pietra tombale in via definitiva, già era sospeso il patto di stabilità interno, quella cosa assurda che obbligava i comuni virtuosi a non spendere, i comuni, le regioni, le città metropolitane, a non spendere i soldi che avevano in cassa, perché se no sballavano i conti pubblici. E così venivano premiati i comuni viziosi, cioè quelli che facevano deficit, perché tanto non puoi spendere col deficit, e penalizzati i comuni virtuosi. L'ho spiegata male, ma è stato per anni uno degli assurdi di questo paese, eh? Che un comune gestisce bene le sue risorse, la sua amministrazione, risparmia, cioè incassa più di quello che spende, poi non può spendere questi risparmi. Che cosa è cambiato? Sono 2 miliardi di euro gli investimenti, diciamo, che potrebbero essere sbloccati, come e con quale norma? Sì, allora, il Consiglio dei Ministri ha approvato questo disegno di legge che appunto mette la pietra tombale sul patto di stabilità, che già era stato, diciamo, superato dalla manovra del 2016. Sul piano tecnico ce la caviamo in maniera facile: gli enti locali, le regioni devono garantire un pareggio di bilancio, quindi una somma non negativa tra le entrate e le spese dell'anno. E poi l'indebitamento a livello territoriale non potrà aumentare, ma del resto già sta diminuendo. Sul piano tecnico direi che ce la caviamo così, e dimentichiamoci finalmente il patto di stabilità, che accanto a quello che dicevi tu, soprattutto non ha diminuito la spesa corrente, cioè la spesa di funzionamento delle amministrazioni locali, ma ha colpito a morte quella degli investimenti. Nel senso che il comune o la regione doveva comunque pagare gli stipendi, la spesa corrente, la gestione corrente, ma non riusciva a fare gli investimenti quelli nel medio termine, è ovvio, no? Esatto, sul piano politico la cosa ha un interesse, diciamo, supplementare maggiore, perché questo disegno di legge cambia la legge sul pareggio di bilancio. La legge sul pareggio di bilancio è quella che l'Italia ha approvato nel 2012, governo Monti, attuando il nuovo articolo 81 della Costituzione. Dove sei, scusami, perché ti sento un po' intubato, come si dice in gergo. Sì, sono in montagna. Sei in montagna, beato te. Allora. Comunque sia, mi sentite? Sì. Sostanzialmente quella legge di riforma, quella del pareggio di bilancio, quella approvata quando lo spread era ai massimi e noi dovevamo far vedere che eravamo iper rigoristi sulla spesa pubblica, è stata approvata nel 2012, non è mai entrata in vigore. Per lo Stato è stata rinviata, viene rinviata di anno in anno, per regioni e enti locali doveva entrare in vigore quest'anno. Si è scoperto però, avvicinandosi alla sua entrata in vigore, che sarebbe stata praticamente ingestibile, perché prevedeva una serie di vincoli quasi impossibili da tradurre in pratica. Ora si attua la riforma. Ne consegue che quella riforma costituzionale, la traduzione italiana del Fiscal Compact, e le sue leggi attuative sono state una roba, diciamo così, di immagine in quegli anni, che è servita per cercare di segnare un po' la febbre di credibilità del nostro bilancio pubblico, ma sul piano pratico non è mai entrato in vigore. Va bene, comunque adesso è ancora più chiaro: tu puoi spendere solo quello che ti avanza, lo dico io, cioè devi avere un pareggio di bilancio, e quello che hai in più in cassa lo puoi spendere. Grazie anche a Gianni Trovati, diciamo, in questa versione così montana. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in studio. Un augurio a tutti voi di una buona Pasqua, a partire soprattutto per chi dovrà passare lavorando. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.